America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Ieri nei talk show americani del mattino si è parlato di molte sfide, quella del negoziato con l'Iran sul nucleare, quella per Hillary Clinton, che ha utilizzato email private e non ufficiali al Dipartimento di Stato, ma si è discusso soprattutto del razzismo in America, di Selma, della manifestazione di ieri con decine di migliaia di persone, di questo 50° anniversario della marcia guidata da Martin Luther King per rivendicare diritti civili, il diritto al voto, che si chiuse il 7 marzo 65 in una domenica di sangue, Bloody Sunday appunto. Sabato c'era stata una cerimonia ristretta con Barack Obama, Michelle, due figlie, c'era il deputato John Lewis che uscì da quella marcia con il cranio spaccato, e devo dire che vedere 50 anni dopo l'abbraccio fra questo deputato e il primo presidente afroamericano davanti al ponte Edmund Pettus, che non andava varcato allora, beh, è stato un momento di alta tensione emotiva, anche perché sulla scia di Ferguson poche ore prima un giovane nero di 19 anni disarmato è stato ucciso da un poliziotto bianco a Madison in Wisconsin. What happened in Ferguson may not be unique, but it's no longer endemic. It's no longer sanctioned by law or by custom. And before the civil rights movement, it most surely was. We do a disservice to the cause of justice by intimating that bias and discrimination are immutable. The racial division is inherent in America. Quello che è successo a Ferguson, dice Obama, forse non è un caso isolato, ma non è più un fenomeno endemico, non è più sanzionato dalla legge o dalla convenzione, e prima del movimento per i diritti civili certamente lo era. Obama cerca dunque di calmare la protesta di oggi. Si è chiuso un cerchio dopo 50 anni con un primo presidente afroamericano? No. No, continua Obama, sappiamo che la marcia non è finita, dice, sappiamo che la corsa non è ancora vinta, sappiamo che per poter raggiungere quella meta benedetta dove saremo giudicati sulla base del nostro carattere, dobbiamo ammetterlo, la strada è ancora lunga. Ecco, per questo credo ci sono state molte ricostruzioni, e fra l'altro quella del film Selma, di cui vi ho parlato in altre occasioni. There are no words to soothe you, Mr. Lee. There are no words. But I can tell you one thing for certain. God was the first to cry. He was the first to cry for your boy. Yes, I believe it. Selma ha vinto un Oscar, un Golden Globe. Quello che avete ascoltato è il momento in cui Martin Luther King, dopo la marcia, incontra il padre del diacono Jimmy Lee Jackson, ucciso a 27 anni dalla polizia, e gli dice: Signor Lee, Dio è stato il primo a piangere. Ricostruzioni sul New York Times di Guy Talese, sulla rete CBS di Bill Plant, entrambi coprirono Selma nel 65, ma anche noi abbiamo un testimone oculare per ricostruire e mettere le cose in prospettiva, un grande giornalista, scrittore italiano, documentarista, qui con noi ai microfoni di America 24, Furio Colombo. Buongiorno Furio. Buongiorno Mario, buongiorno a chi c'è in studio. Eccoci Furio, beh dunque tu hai sentito quello che ho raccontato, ma direi che sei tu che ce lo devi raccontare perché c'eri. Ecco, direi, si piangeva in quei giorni a Selma? Si piangeva certamente in quei giorni a Selma, non Martin Luther King, che non era uomo incline a piangere. Io ho notato la mancanza di Andrew Young e del fervore che circolava nel gruppo di giovani assistenti. Andrew Young, Joshua Williams, Jesse Jackson, c'era una sorta di cospirazione felice che li rendeva allo stesso tempo estremamente seri, estremamente responsabili, ma anche con quel tanto di effervescente e di euforico che è tipico dell'età ed è tipico di un grande impegno. Ecco Furio, io credo che tu sia un testimone straordinario, perché tu hai visto l'America quando gli afroamericani, quando i neri non avevano il voto. Che America era quell'America dell'inizio degli anni 60? Beh, bisogna pensare che l'arretratezza dell'America degli anni 60 è quasi inimmaginabile. Dobbiamo dirlo per poter apprezzare perché alcuni di noi che c'erano allora continuano a ritenere che John Kennedy sia stato un grande presidente e che Bob Kennedy sia stato un incredibile, straordinario ministro della giustizia, ma anche l'insieme di una arretratezza che vedeva un forte avanzamento nei diritti civili dei bianchi attraverso le lotte dei sindacati, e quel periodo i sindacati erano molto forti, e una sorta di fermata, di blocco dei diritti civili dei neri, che ha ispirato molti film, ma manteneva ancora inchiodati all'indietro masse nere, al punto da far dire a Ralph Ellison, l'autore dell'Uomo Invisibile, c'è più libertà in un quartiere di Parigi che in tutta l'America. Avresti mai immaginato che da questi movimenti, da queste dimostrazioni, appena 50 anni dopo un presidente nero sarebbe entrato alla Casa Bianca? Mario, ripensa a te, a me, a tanti che hanno partecipato alla vita americana in quegli anni. Noi ne vedevamo tutte le difficoltà e insieme a molti altri americani che sono invecchiati con noi, ma che hanno lavorato per il loro paese affinché Obama diventasse presidente, siamo sempre stati ottimisti. La situazione nella quale ci troviamo è quella di una grande svolta, che era nello stesso tempo inimmaginabile, ma ammettiamolo, dentro moltissimi cuori. E il fatto che questa grande svolta sia avvenuta come un miracolo e si mantenga con grande difficoltà che tollera e comprende persino l'aperto disprezzo che un bianco non si sarebbe preso mai. Quindi la strada, come dicono le tante canzoni che sentivamo a Selma, da Bob Dylan, da John Baez, da Peter, Paul e Mary, quelle lunghe strade e quei lunghi ritornelli nel chiedere quando, dove, come si sarebbe trovata una soluzione, quella lunga strada continua. Ci sarebbero miliardi di approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Furio, sei ancora qui con noi, microfono America 24, dunque una canzone che secondo te ti riporta a quegli anni, a 50 anni fa, quando ci fu questa dimostrazione a Selma, dove tu hai visto quello che è successo. Cosa scegliamo? Beh, vediamo, una canzone chi la canta, una canzone chi la scrive, una canzone chi la ascolta. Allora, io sceglierei chi la canta dal punto di vista di chi è cantata, coloro che l'hanno eseguita per primi in America e in queste marce. Peter, Paul e Mary sono le persone che scelgo e che ricordo, come dire, dal vivo. Blowing in the Wind è la canzone di cui sto parlando e che sto chiedendo e che ha elettrizzato la gioventù americana di quel momento, ma anche del mondo. Bob Dylan, che ne è lo straordinario e indimenticabile autore, con la canzone forse più bella di tutto il ciclo di ciò che noi chiamiamo la musica giovane. Ottimo, Furio. Peter, Paul e Mary, Blowing in the Wind. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.